la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, 16:30, primi 7 secondi. In diretta da Milano, vi saluto e vi ringrazio come sempre Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Attenti sempre a candidarvi, tra le altre cose, alle nostre puntate su Italia non per giovani. Chi se n'è andato e perché? Chi resta e perché? O chi se n'è andato e ritornato e perché? Scuola, formazione, mercato del lavoro, l'avete sentito in alcune puntate, continuate a segnalarci la vostra volontà. Di che cosa parliamo invece oggi? Parliamo degli sviluppi che sono in corso su un tema che ha investito l'industria automobilistica oramai nell'autunno di 2 anni fa, quando esplose il Dieselgate della Volkswagen a seguito degli accertamenti e delle accuse negli Stati Uniti. Nel frattempo, sapete, la Volkswagen ha iniziato a chiudere gli accordi per pagare con miliardi di sanzioni all'autorità federale americane il FIO per non aver dichiarato, aver anzi mentito anche ai test, con dei device che automaticamente eludevano i test. Il mondo è andato con grande difficoltà, dopo i primi annunci, a nuovi test, e questa volta anche su strada, un pochino, diciamo, meno accondiscendenti nei confronti dei produttori. Nel frattempo, sviluppi di questi ultimi mesi: si è aperto un fronte italo-tedesco con la Germania, che ha accusato il report fatto dal governo italiano nell'anno scorso su 14 auto in tutto, di cui 7 Fiat Chrysler e gli altri rappresentativi delle altre case automobilistiche europee, di non essere stato accurato. Ha chiesto la Germania alla Commissione europea di farsi tramite di richieste, dopo accuse molto dure ai test italiani. Il rapporto era stato tenuto nel cassetto fino a luglio dell'anno scorso, poi è uscito perché ha pubblicato il gruppo al Parlamento europeo dei 5 Stelle nel novembre scorso. Del Rio rispose durissimamente alle accuse tedesche. Del Rio l'altro ieri ha fatto un'audizione parlamentare in cui ha ribadito che secondo i controlli disposti dal governo italiano, dando mandato al CNR, Fiat Chrysler rispetto alla regola sui diesel e Berlino lo riconoscerà. L'ultimo incontro tecnico c'è stato il 2 febbraio, ha informato il Parlamento italiano Del Rio, e in ogni caso Del Rio è stato molto duro e pontiglioso, dicendo: come noi continuiamo a rispettare le omologazioni fatte dai tedeschi, loro devono rispettare le nostre. Vi ricordo che Del Rio arrivò a parlare addirittura di questione di sovranità nazionale, fu durissimo di fronte alle accuse tedesche. Nel frattempo, proprio ieri, a questo proposito, dopo che la Reuters aveva rilanciato il fatto che c'erano in particolare 2 test a cui non erano stati sottoposti dai controlli italiani sui 7 veicoli Fiat Chrysler in tutto, io vi ricordo che Del Rio aveva parlato a novembre del 2015 di 1000 veicoli da sottoporre a test anche su strada, non sono stati 1000 ma 14, e non su strada. Ma detto questo, dopo che Reuters aveva rilanciato praticamente nello stesso giorno dell'audizione di Del Rio fonti che dicevano: guardate che in particolare sono 2 i test che secondo i tedeschi non sono stati applicati alle vetture Fiat Chrysler sottoposte ai test italiani, ieri Automotive News Europe, quindi la Bibbia Automotive News di chi si occupa del settore automobilistico e automotive più in generale, ha pubblicato un dettagliatissimo articolo, che però nessun giornale italiano ha rilanciato, di Lawrence Frost e Silvia Loisi, in cui si spiega tecnicamente, adesso io non entro nei dettagli, quali sono i 2 test a cui non sarebbero state sottoposte dalle autorità italiane 3 dei 7 veicoli i Fiat Chrysler sottoposti a campione, appunto, ai test, e cioè in particolare una Jeep Cherokee di 2000 di cilindrata, la 1006 Alfa Romeo Giulietto, stiamo parlando attualmente di diesel, e la Lancia Y 1003, e in particolare, appunto, il pezzo spiegava che questi 2 test a cui non sono stati sottoposti questi veicoli da parte del governo italiano sono il test Artemis, quindi Artemide per così dire, che serve a incorporare nel test i risultati dei diversi stili di guida urbani, e un secondo tipo di test. Quindi l'articolo era tecnico, ma solo per dirvi che in realtà c'erano poi dichiarazioni anche di tecnologi e membri di gruppo di studio sulla motoristica e così via, che dicevano no, questa versione, questo rapporto italiano continua a sembrarci lacunoso, con la dichiarazione, però voglio essere corretto, della portavoce del Ministero Italiano delle Infrastrutture, Luisa Gabbi, che dicevano no, vedrete che non è così, il Ministro ha già detto in Parlamento che i test non sono stati ammessi, è in arrivo una nuova definitiva versione, sto leggendo, che include più dati sui modelli Fiat Chrysler, anche se però alla domanda precisa ci sono questi due test che mancano, il portavoce ministeriale non ha risposto. Questo teniamolo sullo sfondo. Nel frattempo io vi rinvio anche, perché in Germania poi è ben lungi dall'essere finita, perché c'è l'indagine penale in corso, su tutti i giornali trovate, in particolare anche sul Sole 24 Ore, le code dello scontro polemico arroventatissimo che in Volkswagen è in corso, perché proprio ieri c'è stato uno scambio di note molto dure a proposito delle versioni che sarebbero rese ai magistrati nel frattempo dagli ex vertici della casa automobilistica tedesca, perché dopo che i giornali tedeschi avevano riportato che Piëch, che è ancora oggi il azionista importantissimo della Volkswagen, aveva detto ai magistrati che in realtà l'allora amministratore delegato negli anni precedenti, Martin Winterkorn, sapeva di questi device con molto anticipo, non li ha scoperti certo dopo le accuse elevate negli Stati Uniti. Il Consiglio di Supervisione della Volkswagen ieri ha emesso una nota durissima in cui dice che naturalmente non è vero e così via. Quindi siamo ben lungi dall'aver accertato ancora quanto profonda fosse la conoscenza, la complicità, quindi nel munire di quei device le vetture tedesche. Ma se questo è lo sfondo, che come vedete è uno sfondo ben lungi dall'essere risolto, in realtà oggi ci occupiamo di una cosa che è collegata e che su tutto questo nasce, ma che ieri segnalatami alla lettura mi ha fatto sobbalzare. Perché sull'organo per cui scrive oggi l'ingegnere Enrico De Vita, che molte volte abbiamo sentito su questi temi e che si è occupato da ingegnere di questo tema per tutta la vita, la sua vita professionale, e oggi scrive, oltre che fare consulente, ma esattamente di queste cose qui, ieri ha pubblicato su Automoto, lo trovate sul sito di Automoto, quindi.it, un articolo di quelli che veramente uno li legge e si gratta la testa. Io vi do solo il titolo prima di salutare e ringraziare l'ingegnere Enrico De Vita, perché il titolo è questo: anche i motori a benzina più avanzati sprecano circa un quinto del carburante. Allora, buon pomeriggio e grazie, ingegnere De Vita, di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito. Immagino che dopo quello che ci aveva detto nelle precedenti puntate mesi fa non sia stupito della vicenda che è ancora in corso tra Italia e Germania, però innanzitutto sarei curioso di sapere qual è la sua opinione su questo rapporto italiano. Allora, la mia opinione è che tutti sapevano tutto. Io stesso sapevo che le maglie dei regolamenti europei consentivano a tutti i fabbricanti di giocare sulle emissioni e di modificare, alterare sia i consumi, che questo qualunque automobilista sa che i consumi dichiarati non sono quelli che lui ottiene tutti i giorni, sia sulle emissioni. In virtù di cosa? In virtù di una grossa maglia che dice che se regolando le emissioni per rispettare i limiti si creano danni al motore, si può mettere una croce sul dispositivo che regola le emissioni, dimenticarsi dell'ambiente e fare quello che si vuole. Questo lo hanno fatto sia i costruttori di auto benzina sia i costruttori di auto diesel. Questa, diciamo che sugli NOx in passato gli americani erano molto severi, noi in Europa molto di meno, e per non danneggiare il motore Volkswagen ha, per non danneggiare né il motore né il dispositivo antinquinamento, Volkswagen, mentendo, lo aveva tarato in due modi diversi. Defeat device significa che c'è una manomissione nel dispositivo che si attua automaticamente quando il veicolo è in strada. Ora, sono sei mesi che io lavoro a questa inchiesta. Perché? Aspetti, io prima di arrivare a questa inchiesta le dico, so che io la ringrazio per questa opinione tecnica che dà, Perché francamente, andando in onda su questi temi ogni tanto, scrivendo post, scrivendo eccetera eccetera, mi trovo con un montare di una reazione prevalente, io non voglio dire unanime, però prevalente, che invece si è imbarcata o segue, per così dire, la bandierina nazionale, per cui molti intervengono su questo dicendo sono i tedeschi, devono pagare i tedeschi, noi no, e così via. Io prego tutti di ascoltare chi se ne intende, perché sono questioni tecniche, prima di credere alla cosa per cui c'è una specie di potenza del male, no? Contro cui si combatte la grande guerra di Star Wars, cioè la potenza del male, ovviamente i tedeschi, mentre noi sarebbero tutti puri, e quindi di inveire perché i francesi che si permettono di aprire le indagini anche sull'industria italiana, bla bla bla. Forse è meglio tentare di capire prima, dando retta a chi queste cose le ha seguite professionalmente da una vita, di motori si è occupato da una vita, conosce le modalità attraverso cui nel tempo si sono evoluti processi di omologazione nazionale su rulli a fermo, non per strada, non in condizioni di emissione reale. Ecco, io la ringrazio per questo, perché altrimenti non si viene creduti. Allora, lei adesso, andiamo al punto, dice: da mesi ho lavorato su una certa pista, quella per cui ieri ha scritto questo articolo, che in effetti a me fa sobbalzare. Prego, ce la spieghi. Finora si è parlato di diesel e di NOx, che sono dei gas che gli stessi americani considerano una famiglia di gas che possono dare delle reazioni, diciamo, allergiche alle persone, asma, bronchiti, se ci sono già vengono peggiorate, ma soprattutto creano smog fotochimico. Abbiamo spiegato molte volte che la durezza degli standard sull'emissione di ossidi di azoto NOx dipende dal fatto che negli anni 70 e 80 questo tipo di emissioni, questo tipo di composti furono considerati fondamentali rispetto al tipo di inquinamento che si creava sulla costa occidentale degli Stati Uniti. È così? È esattamente così, ed è più che altro per questioni ambientali, paesaggistiche, la coltre rugginosa che c'era su Los Angeles. Esatto. In Europa invece contemporaneamente si badava al veleno vero che uccideva le persone, l'ossido di carbonio, che ancora oggi tra le stufette crea un sacco di vittime. Bene, in Europa si è partiti allora nel 70 a dire misuriamo e conteniamo l'ossido di carbonio. Poi siamo arrivati alla marmitta catalitica nel 92, quindi 22 anni dopo gli americani, e abbiamo adoperato gli stessi limiti. Adoperando gli stessi limiti abbiamo reso severissimo il controllo del diesel, meno severo quello del motore a benzina, perché con la marmitta catalitica sembrava purificato in tutti i suoi inquinanti. Che sono il miracolo della sonda Lambda. Esattamente, la sonda era proprio lo strumento che obbligava l'iniezione a emettere allo scarico acqua e CO2. CO2 è il vapore che mettiamo anche noi, il gas che mettiamo anche noi respirando, che beviamo nella Coca-Cola, e acqua non fa mai male a nessuno. Questi due gas devono essere gli unici gas in uscita sia dai benzina sia dai diesel. Poi nel diesel si è trovato il particolato, oggi si trova gli NOx e lì si addebita dei mali del mondo. Non è così, gli NOx sono anche un gas fertilizzante, la natura se lo crea da solo quando mancano composti azotati nelle piogge. A questo punto il problema è cosa hanno fatto le sonde Lambda in 20, ma è dal 92, quindi sono 25 anni di marmitte catalitiche. Ecco, già nel 92 mi ero accorto che le centraline elettroniche di tutte le auto benzina spegnevano la sonda Lambda arrivati a un certo carico di acceleratore o a una certa velocità. Perché lo facevano? Perché le norme dicevano se si creano danni al motore si può manomettere o dire al dispositivo di non entrare in funzione. Ecco, allora tutte le sonde Lambda del mondo vengono spente dalle centraline elettroniche non appena si dà carico con l'acceleratore o si superano i 120, che è la velocità massima dei cicli di misura attuali, 130 domani. Questo cosa significa? La Bosch, diciamo fortunosamente, diciamo incresciosamente o infantilmente, ha fatto uscire un comunicato qualche mese fa in cui afferma che tutti i motori a benzina, anche i più avanzati, sprecano un quinto del combustibile perché non riescono a bruciarlo, ma adoperano questa iniezione di benzina per raffreddare le valvole. Evidentemente le case utilizzavano questa norma per dire si crea danno al motore, quindi facciamo quello che vogliamo. Però proprio pochi giorni fa, il 26 gennaio 2017, l'Unione Europea ha fatto uscire un chiarimento che taglia le gambe a tutti, Volkswagen, Fiat e tutti quelli che hanno giocato sia nei diesel sia nei benzina con la scusa, la giustificazione che si sarebbero creati danni al motore se non si spegnevano i dispositivi. Il chiarimento dice: il costruttore deve fornire la prova dei danni rovinosi al motore, danni improvvisi e irreparabili. Se invece il dispositivo antiguamente viene spento per migliorare la protezione a lungo termine del motore o del sistema di controllo delle emissioni o aumentare la durata del motore, queste non sono considerate un motivo accettabile per montare impianti che manipolano il device. C'è in fondo un'altra nota che dice: ogni qualvolta sia disponibile sul mercato una tecnologia che riduca o elimini tale rischio, questa deve essere utilizzata nella misura più ampia possibile. E questa puzza perché? Perché proprio in questi giorni Bosch, nel dire che i motori inquinano, ha detto anche: io ho pronto un dispositivo per risparmiare questo 20% di maggior inquinamento, di maggior consumo, ha detto, che però corrisponde esattamente a un maggior inquinamento, perché nulla si crea, nulla si distrugge, quindi la benzina in combusta esce dallo scarico sotto forma di composti altamente cancerogeni. Ora, lei ha interpellato la Bosch? Ovviamente. Diciamo che abbiamo atteso 2 settimane prima di pubblicare questo articolo, e la Bosch ha balbettato alcune cose, poi la cosa è andata in Germania, non c'è ancora stata data una risposta chiara. Noi abbiamo pubblicato lo stesso articolo prendendo alcune precauzioni, mettendo solo le affermazioni che ha fatto Bosch. A noi risulta però che questo maggior consumo del 20%, Bosch dice si può risparmiare almeno il 13% di questo maggior consumo, dà luogo allo scarico veramente a quantitativi, a grammi interi, anche 10 grammi di benzina in combusta, quindi quantitativa al chilometro, giganteschi rispetto agli NOx o rispetto agli altri prodotti che escono allo scarico e che possono uscire liberamente e che nessuno ha mai bloccato e nessuno si era mai accorto di questo. Ma scusi, io a questo punto le faccio una domanda, però la risposta dopo un minuto, perché adesso andiamo appunto nel traffico, informazioni di servizio. Come è possibile che a rivelarlo, e stiamo parlando di motore a benzina, lo sottolineo per chi ci ascolta, sia proprio la Bosch, solo perché deve tirare un nuovo device più avanzato per abbattere il problema di cui essa per prima però dichiara l'esistenza da sempre? Una domanda un po' inquietante, per così dire. La risposta tra un minuto in giro da vita. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta con noi l'ingegnere Enrico De Vita, partendo da comunicato mesi fa della Bosch, che ci dice: guarda che tutti i motori a benzina, anche i più avanzati, in realtà hanno un dispositivo che sconnette la sonda lambda e quindi a quel punto, per preservare il motore, si consuma fino a un quinto di benzina in più. Questo significa emissioni mostruose in più. Il nostro ingegnere De Vita sente la Bosch, è ovvio che questo apre una prospettiva molto importante che riguarda, come vedete, non più solo i motori diesel, ma la domanda è: com'è che Bosch fa una dichiarazione di questo tipo? Solo per tirare il suo nuovo prodotto, che a questo punto, invece di maggior consumo di benzina, risponde con più ossigeno nel processo, è per questo, secondo lei? Ma può spiegare il fatto che tirano contemporaneamente il velo su una cosa, una questione deliberatamente ignorata per tanti anni? Allora, il titolo che abbiamo messo è un comunicato stampa catastrofico, per dire che il comunicato stampa di Bosch effettivamente si tira la zappa sui piedi, sia perché Bosch è l'inventore della sonda Lambda, ne ha costruiti 1 miliardo finora di sonde Lambda, che ha venduto dal prima del 92, dall'87, in tutto il mondo. Si tira la zappa sui piedi. Bosch è anche il produttore delle centraline elettroniche di mezzo mondo e degli impianti di iniezione. Non dimentichiamo che il Common Rail fu regalato dalla Fiat alla Bosch, per due lire, e che Bosch guadagna un'infinità di soldi vendendo Common Rail. Quindi Bosch è dentro a tutto. sia alle norme, sia ai dispositivi elettronici, sia alle centraline, sia alle sonde lambda, sia ai controlli antinquinamento, sia ai consumi. Questo comunicato è uscito evidentemente dagli uffici stampa per dire: abbiamo un dispositivo che rimedia a questo maggior consumo. Hanno dovuto ammettere che il senso di questo dispositivo è ridurre il consumo. Si può anche aumentare la potenza, il rapporto di compressione, ha tante doti meravigliose che hanno voluto pubblicizzare, e nel farlo hanno dovuto ammettere che prima c'erano dei maggiori consumi. Ma il comunicato in testa dice proprio: lo sapevate che anche i motori a benzina più avanzati sprecano circa un quinto del carburante, soprattutto da alti regimi, eccetera, eccetera. Parte della benzina viene utilizzata per il raffreddamento delle valvole anziché per la propulsione. Quindi è un'ammissione non di colpa, di tecnica sbagliata. Ma perché questo? Perché le norme hanno sempre consentito di dire: se si creano danni al motore si può spegnere tutti i dispositivi antinquinamento. È che nei benzina lo si è fatto, lo si fa ancora oggi, in queste ore viene fatto regolarmente, e nessuno dice niente. Sui diesel gli americani hanno scoperto che gli NOx venivano aumentati in strada e si è scatenato il finimondo. Quindi, per riportare in pari, par condicio, i due motori, bisogna dire: attenzione, i motori benzina l'hanno sempre fatto, la scusa del danno al motore oggi non è più valida, perché l'Unione Europea ha detto deve essere un danno immediato, irreparabile e improvviso, cosa che anche le valvole bruciate non provocano, tantomeno gli NOx che escono. Aspetti, però c'è un nostro ascoltatore che ci dice: vabbè, allora bisogna pensare a una cosa, se a dirlo il produttore e nel frattempo, guarda caso, perché questo ascoltatore ci ha attentamente ascoltato quello che lei diceva, cambia anche la norma europea, per cui bisogna a quel punto che il danno al motore sia motivato, argomentato e irreparabile, vuol dire semplicemente che ci stanno spiegando come qualmente saremo costretti tutti a comprare in Europa milioni di auto diverse da tutte quelle che abbiamo comprato in questi anni. Questo è il sospetto di un nostro ascoltatore. Devo dire che alla luce di tutte le cose, Euro 5, Euro 6, tutto quello che stiamo scoprendo da un anno, non è un dubbio forse infondato, però la risposta a lei, ingegnere. Ma diciamo che chi sapeva come stavano le cose meglio di me, il professor Rubbia, nel 2003 scrisse: ragazzi, fermiamoci, le norme Euro 4 pongono dei limiti ai benzina e ai diesel tali per cui l'ambiente è già pulito a sufficienza trattandosi di combustione, e non spendiamo altri soldi per pulire ulteriormente i motori, perché sono soldi buttati via. Infatti quello che si richiede... No, sono soldi, per così dire, che servono ad accelerare il tasso di sostituzione del parco esistente. Cioè, per chi produce non è proprio indifferente. Certamente, però se pensiamo che gli NOx vengono emessi da qualunque fiamma ad alta temperatura, la fiamma del gas, emette NOx, brucia aria, provoca aria calda, tutti i bruciatori domestici e le caldaie provocano NOx, mentre sui diesel è stato ridotto drasticamente di 5-6 volte, in tutti gli altri tipi di bruciatori domestici, industriali, caldaie, perfino il gas per cucinare, non c'è nessuna riduzione degli NOx. Io devo dare un'altra risposta, perché qui molti non hanno capito. Dice: sì, ma se solo però risparmio di benzina, qui non c'è danno. No, io vi ridico, vi leggo testualmente una frase per farvi capire di quanto è sottostimato attraverso questa faccenda della sconnessione automatica della sonda lambda l'effetto sulle emissioni. Se bisogna considerare costante un maggior consumo del 20%, leggo, per una vettura che consuma 10 litri per 100 km, quindi con uno spreco di 20 cc di benzina al chilometro, questo si traduce in un'emissione di almeno 10 grammi di idrocarburi in combusti al chilometro, quindi un danno all'emissione, una sottovalutazione dell'emissione abissale come ordine di grandezza. Corretto, ingegnere? Oggi il limite che viene misurato nelle prove al banco è di 0,1 grammo al chilometro di idrocarburi. Quindi si aumenterebbe di 100 volte. Ora, cari ascoltatori, non so se vi è chiaro, significa che i test di omologazione fatto sull'auto a benzina sono lontani di un fattore 100 rispetto alla realtà. È chiaro quello che stiamo dicendo? 100 volte. Ecco, pensiamo anche a questo, prima di dire il Volkswagen da solo, i diesel. No, qui c'è un problema. Però la Commissione Europea, nel cambiare la norma, evidentemente... Non l'ha cambiata, l'ha interpretata soltanto. Ah, l'ha solo interpretata. Ha fatto un chiarimento, infatti è intitolata Chiarimenti. del chiarimento della norma, ma diciamo che anguassato. Aspetti, c'è un'altra osservazione di chi dice: no, non ha ragione De Vita, il raffreddamento delle valvole nei motori a benzina non avviene perché il carburante viene iniettato in camera di scoppio, perché viene iniettato il carburante in camera di scoppio e non sprezzato sulle valvole. Diciamo che viene iniettata benzina liquida e nel passaggio di stato da liquida a vapore a gas raffredda come tutti i passaggi di stati, e questo che riduce la temperatura ed evita il problema della sfiammatura o bruciatura delle valvole. È lì che si sono, diciamo, arroccati tutti i costruttori europei che hanno fatto motori a benzina. Gli americani non hanno sfruttato questa norma, tant'è vero che per evitare che si brucino le valvole si possono fare motori molto meno compressi, più grandi, cioè, di cilindrata, più grandi con di meno potenza. Come e lo ha fatto sempre, invece il fisco europeo, italiano in particolare, ma hanno lavorato sulle cilindrate per sfruttare, proprio per chiedere ai costruttori di fare i motori piccoli e potenti, e li hanno passati in base alla cilindrata. Allora, io intanto ringrazio l'ingegnere De Vita e rimaniamo sempre in contatto con lui per eventuali aggiornamenti. Capite che stiamo parlando di una scoperta che apre un nuovo, inquietante, enorme campo all'approfondimento di come cacchio si fanno le omologazioni dei motori, anche benzina, cari ascoltatori. Continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20. Attenti noi due, grazie all'ingegnere De Vita.